Rieccoci, siamo quasi al termine di questa puntata, di questo speciale che ho voluto fare, ho voluto preparare appunto in onore della regione dalla quale io provengo e nella quale attualmente vivo, che appunto è stata anch'essa bersaglio di interesse da parte degli UFO, sia nell'antichità, come abbiamo visto, risale al 1954, uno degli avvistamenti più tardi nella storia appunto dei cieli della Calabria fino ad oggi. Avendo raccolto queste notizie, io avevo piacere di raccoglierle insieme, di metterle insieme e di poter dedicare una serata di questo dicembre, che non è poi così freddo come ci aspettavamo e come è stato negli anni precedenti, anzi ci sta graziando di splendide giornate di sole, in cui appunto si parla di avvistamenti UFO, di navicelle spaziali, di fasce di luce, scusate. A proposito di fasci di luce, qualcuno un po' di tempo fa, che io purtroppo poi non ho avuto modo di approfondire, mi ha chiesto di fare una ricerca su dei fasci di luce, avendo letto un libro lei stessa, e mi ha detto appunto che a proposito di fasci di luce molto spesso si intende parlare di angeli. Quindi là non è il solito disegno che noi abbiamo in mente, la solita immagine dell'angelo dotato di ali e con la faccia da bambino che compare appunto nell'immaginario comune, ma può essere relativo anche ai fasci di luce. Quindi chissà che chi ha avvistato questi fasci di luce di cui parlavamo prima in alcuni avvistamenti pregressi non abbia visto degli angeli. Comunque vado a leggervi questo articolo, come avevo annunciato prima della messa in onda dei brani musicali, che risale al 4 dicembre del 2010. Il disco volante è apparso in pieno giorno sopra i cieli calabresi di una nota zona di vacanza a pochi chilometri dal mare e ha scosso e spaventato gli abitanti del luogo. Il panico si è trasformato in terrore quando la navicella si è abbassata fino a pochi metri dal terreno e ha cominciato a emanare fasci di luce verde e blu. Il disco si è stabilizzato sopra un giardino di un conosciuto contadino della zona, Alfredo G., e ha fatto volatilizzare in pochi secondi tutte le piante di cedro presenti nel lotto del Mezzadro. Solo l'arrivo delle forze dell'ordine nel nucleo operativo di Belmonte Calabro ha fatto desistere gli alieni, i quali, sotto il fuoco della beretta dei poliziotti, sono stati costretti a restituire al coltivatore il maltolto. Durante la vicenda, un alieno si è affacciato dal finestrino del veicolo non identificato e ha mandato a quel paese il contadino, il quale, per le forti offese, ha perso i sensi ed è stato soccorso da un'ambulanza, scusate. Alla fine, gli alieni, dopo un piccolo diverbio armato, sono riusciti a seminare le volanti. Gli omini rossi sono stati denunciati per furto aggravato e violazione di omicidio con mezzo cosmico. Questo fatto mi fa un po' ridere perché denunciare degli omini rossi a bordo di una navicella spaziale che scompare nel nulla. Per violazione di domicilio, e sull'articolo è scritto di omicidio invece, con mezzo cosmico è fantastico. Alfredo G. è stato portato all'ospedale di Paola per accertamenti sullo strano svenimento. I nuclei speciali sono alla ricerca degli extraterrestri, mentre una squadra di volontari sta tranquillizzando gli abitanti del posto con balletti, polka e crepes salate. Bene, amici, ho preferito chiudere questa puntata dedicata agli avvistamenti alieni con un articolo un po' strambo, l'avrete capito tutti quanti, è una sorta di barzelletta, giusto per poter farci due risate in merito al tutto, anche perché qualcuno potrebbe dire, quando si parla di avvistamenti alieni, di spiriti, roba varia, sostanzialmente lo si fa per incrementare il turismo, per far diventare il posto in cui si vive meta di turismo e di interesse pubblico, per poter insomma avere degli introiti, sia che siano personali o comunali, questo poco importa. Io ho deciso appunto la chiusura di questa puntata di oggi, di questa sera, con questo articolo molto strambo e molto simpatico. Io adoro il fatto che con violazione di domicilio, con mezzo cosmico, è veramente fantastico. E spero che voi abbiate trovato questa puntata interessante, una nota di barzellettiere, ce l'ha avuta anche questa rubrica questa sera, appunto attraverso questo articolo relativo a Belmonte Calabro e agli avvistamenti UFO che sono andate a estirpare le piante di cedro a questo poveraccio di contadino che è finito all'ospedale e tutti gli abitanti che alla fine hanno risolto il tutto con una polca, i balletti e le crepe organizzate appunto dalla polizia di Stato. Penso che sì, anche in questo possiamo leggere un lieto fine molto divertente ed eclatante soprattutto. Bene, io per questa sera vi do la buonanotte, vi ringrazio per l'attenzione che mi avete accordato, spero che abbiate voglia di passare un'altra serata con me. Buonanotte.